Per tutti gli appassionati di moda e non, martedì 6 maggio dalle ore 16 ci sarà la presentazione del libro Storia della moda e del costume, delle autrici appunto Angela Paffumi e Vincenza Maugeri. Le autrici stesse appunto presenteranno il libro presso appunto lo IAD di Bologna. E l'iniziativa è stata anche promossa dalla modoteca di Igor Pallante e oggi sono qui a parlarne infatti con Omar Pallante, che è appunto CEO e Art Director dello studio creativo Vetrina Pro. Quindi ecco in collegamento telefonico Omar, è un piacere averti qui. Buongiorno a tutti, il piacere è nostro e vorrei cominciare ringraziando come sempre Radio Fujiko che da oltre 10 anni ci sostiene in questo progetto che ricordo a tutti è assolutamente pubblico e per tutti quanti. Quindi esatto, un appuntamento da non perdere sia per gli amanti della moda che non. Partiamo con le domande. Quando nasce appunto la Modoteca Igor Pallante e qual è lo spirito e l'obiettivo di quest'ultima, della Modoteca Igor Pallante? La Modateca, il MIP, è una biblioteca pubblica dedicata a moda, design e arti visive. È nata nel 2011 in collaborazione col Comune di San Lazzaro e si trova fisicamente all'interno della Mediateca di San Lazzaro in via Caselle. Ovviamente essendo uno spazio pubblico e ci piace sempre ricordarlo, è anche all'interno del circuito OPAC SBN. L'obiettivo della Modateca è quello di rendere i temi di arte, design, moda, soprattutto moda, di libero utilizzo per chiunque, dagli studenti ma anche per qualsiasi interessato su questi temi. E a proposito invece del libro che poi si andrà a presentare, quindi Storie della moda e del costume, ti volevo chiedere un pensiero sul tema della moda, cioè su come questo tema sia sempre stato al centro del dibattito da secoli ormai. Ma diciamo che i testi si sviluppano sia sulla presenza e sulla moda all'interno della società, sui materiali utilizzati, su come la moda in diverse situazioni comunque ha avuto un forte impatto anche in varie società e come a volte ha potuto portare avanti dei temi importanti nel corso degli anni. Quindi due volumi non solo per uso comunque scolastico accademico ma per tutti, anche per appunto le immagini, le raffigurazioni che ci sono appunto presenti all'interno. Inoltre appunto ricordo che l'appuntamento è fissato per martedì 6 maggio dalle ore 16 allo IAD di Bologna. Io ringrazio Omar Pallante per l'intervento e vi aspettiamo appunto il 6 maggio dalle ore 16.